va ora in onda Shabalon, un programma di Piazzalta di e con Enzo e Marcello, alla conduzione tecnica Simone, alle riprese video eccezionalmente Matteo. È la quinta puntata di Shabalon, amici, in diretta video, in registrata audio e in registrata video. E via, è bellissimo, la tecnologia ci mette a disposizione tutto ciò. Che giorno è oggi? 11 novembre 2016. San Martino. Per i paesi in cui, ecco, il santo patrono è questo, è praticamente giorno di festa. Come chi ci segue da sempre può vedere anche un'attrezzatura nuova, finalmente un microfono degno. Ah no, ecco. Finalmente un microfono degno, non che gli altri non fossero degni, anzi l'altro è proprio qui a sventolare. E stiamo per iniziare. Avete già visto gli ospiti, forse li avete anche sentiti, ma prima di parlare di loro andiamo con un brano eccezionale. Che Enzo andrà a... Ma prima di tutto, vi ricordo che se condividete avrete tanto amore. Tanto amore in cambio. Ricordate di condividere la nostra pagina Facebook che è oltre 760. Ah, grazie, la puntata scorsa ha raggiunto oltre 1000 visualizzazioni. Abbiamo fatto il record. Oltre le nostre più rose aspettative, ma il nostro prossimo obiettivo è 100.000. 100.000, quindi ci vediamo fra qualche anno. Stasera pensiamo di sfondare. Assolutamente. A fra pochissimo andiamo con il primo brano che poi disannuncerò che è meglio, perché non lo so. Sì, dovrà fare uno spelling. Yeah. In the KGB, so no funny business. You already are. E torniamo in diretta con Mia, Paper's Plane. Bellissimo. Paper's Plane. Per i nostri progetti è studiare, studiare l'inglese. Per i nostri progetti è... Scusate, non ho mai il tuo spelling. Paper Plane. Va bene. Utile. Bene, Shabalon. Shabalon. Come seguirci lo sapete perché ci state seguendo, quindi è inutile dirvelo. Ma vogliamo ricordare tre appuntamenti fondamentali. Sì. Stiamo per parlare con i nostri ospiti di un, dell'evento che sta monopolizzando l'attenzione. Andremo a presentare nel dettaglio. Esatto, ma più tardi avremo un collegamento da Firenze dove andremo a sentire le ultime novità per chi vuole fare qualcosa. Sì, perché Firenze sarà comunque una, solo una prima tappa di quello che vogliamo sapere, di quello che succede intorno a noi. Che è la seconda, perché la prima l'abbiamo già fatta con Milano, però... ma non importa. E poi più tardi... lo speciale Fantachiana che ogni sabato e ogni venerdì con noi ci raccontano un po' le cose. Ma iniziamo. E poi iniziamo. Inizio io, vabbè. Stasera parliamo di Fogliano Fotografia. Eccoci. Fogliano Fotografia che è l'evento che sta monopolizzando, come dicevo prima, esatto, il cartellone foglianese di questa settimana, di questo novembre, una manifestazione a livello ormai internazionale. E sono qui a parlarne assieme a noi Marcello Fatucchi. Buonasera Marcello. Ciao. La carica di Marcello in questa Factotum. No, diciamo amministratore. No, no, presidente. Ha ceduto la presidenza del presidente. Marco Sallese, la carica presidente. E Valerio Paterni, presidente. Vicario, in carica e onorario, no, tutti, è tutti. Chiaro che sono aperte le iscrizioni al prossimo tesserato, c'è libera la quarta poltrona da presidente. Esatto, certo. Allora, scusami, ma c'è Giancarlo Valdambrini che dice: belle fotografie quelle del Paterni e di Sallese, il Fatucchi è un viola, che vuoi pretendere? Grande, grande. Bravo. Così, veramente, quasi il viola, sempre. Il calcio permea la vita. La permea. Ma vogliamo spiegare a chi non lo sapesse, caro Marcello, no, che cos'è Fogliano Fotografia? Uno di voi lo spiego tutto e tre insieme, una frase per loro. Lascio la parola a loro. No, no, pensavo tu dicessi lascio la parola al presidente. Lascio la parola al presidente. Marcello, inizia. Fogliano Fotografia è una rassegna internazionale che si fa a Fogliano ormai da 17 anni. È una rassegna che un po' tutta l'Italia la conosce, è conosciuta anche all'estero. Quest'anno è stata la 17ª edizione, siamo molto contenti di come sta andando, di come è andata l'inaugurazione in primi tre giorni di weekend. Sì, ricordiamo, è iniziata il 4 novembre, sì, il termine bene, sì, una settimana fa, terminerà il 27 novembre e insomma per ora sta andando bene, siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto. Noi in una precedente occasione, in altra sede, avevamo presentato quello che era il vostro profiling e vogliamo ripartire da lì, facciamo un attimo il riassunto. Siamo arrivati a fare Fogliano Fotografia anche perché è stato fatto un grandioso crowdfunding. Poi Enzo, se mi permetti, voglio sottolineare che è la 17ª edizione. Sì, ci manca un anno per essere maggiorenni. Perfetto, da quel punto sarete totalmente svincolati. Già la manifestazione non è improvvisata, ma quest'anno c'è stata questa iniziativa di crowdfunding perché ha reso, diciamo, particolare l'organizzazione di quest'anno. Scendiamo un po' nel dettaglio. Che periodo era e che cosa è servito il crowdfunding? Io mi ricordo che era esattamente un anno fa che ci siamo incontrati con loro per la prima volta in questa stanza qua dietro a parlare di come organizzare Fogliano Fotografia 2016, perché l'edizione 2015 non si è potuta fare per via appunto, di mancanza di fondi e infrastrutture, eccetera. No, ragionando su un po' di idee che c'erano venute fuori, è partita questa cosa della raccolta di fondi sociali, questo vuol dire di crowdfunding. Da un'idea di Marcello che è quella di stampare questo striscione gigante da appendere lungo le mura, siamo andati a capire come farlo realmente, come coinvolgere le persone e come tirarci sui soldi per fare questa cosa qui che è stata. Per chi ci segue anche fuori, da lontano, di fuori di Fogliano, se venite a Fogliano, lungo le mura castellane trovate una lunghissima fotografia, diciamo. Sì, ora è diventata un po' più corta perché stanno ristrutturando le mura, però pezzo. Diciamo che le mura castellane sono praticamente contornate, diciamo, da queste foto. E queste sono servite, appunto voi avete raggiunto ampiamente l'obiettivo che avevate prefissati e grazie a questo abbiamo potuto vedere voi organizzare questa fantastica mostra, che poi non è una mostra ma sono più mostre. Ma è un po' un festival, c'è cioè una cosa interessante che ora sono già passati 7 giorni e ci sembra ieri che abbiamo inaugurato. Il festival si compone, sì, cioè le mostre fanno da contorno a tutto quello che sono gli eventi che invece poi coprono il festival. La settimana scorsa c'erano molti degli autori che espongono, c'erano un sacco di lettori portfolio che sono editor delle riviste più importanti, insomma tutte persone che hanno... Domani eravamo in bagno tutti per letto. Sì, siamo usciti da tutte le testate giornalistiche più importanti, quindi insomma... Sì, perché forse per noi ignoranti, soprattutto te Marcello, no? ma per dire... anche un vanto. No, ma per dire, per noi ignoranti, noi sicuramente sottovalutiamo l'importanza di questa manifestazione che invece ha nel settore, purtroppo questo lo riconosco dal momento in cui ho iniziato a seguirmi un attimino con più attenzione e abbiamo visto anche il livello, che parlo sempre da ignorante, degli espositori. Grazie. Che è veramente alto. Di questo però parlerei nei prossimi interventi, così snoccioliamo meglio. Diciamo, non si tratta solo, come dicevamo, di mostre, perché, come dite, è un vero e proprio festival, perché all'interno, per esempio, ci sono state già delle letture, se non sbaglio. Due portfolio, ci sono, diciamo, dopo l'inaugurazione, come sempre, fatta da photo editor importanti di riviste. Scusa, una lettura portfolio, che cos'è? Bella domanda. La lettura portfolio è la presentazione di un progetto fotografico, o semplicemente delle fotografie che presenti a persone competenti del settore e loro sono in grado di darti un giudizio sul lavoro che presenti, sulla fotografia stessa, darti dei consigli se la fotografia, il tuo scatto è buono, è meno buono, cioè sono consigli che servono per chi vuole fare fotografia per crescere. Altrimenti, anche se sono più fotografie, se si diciamo si incastrano totalmente. Di solito chi porta un portfolio e fa una lettura portfolio appunto è un progetto. Un progetto significa una storia, un racconto, quindi non è che io porto una foto del mare, una della montagna, cioè no. Sono storie raccontate in 15-20 fotografie e lì serve appunto il che raccontano anche una storia, soprattutto una storia, e viene giudicata da queste persone che il loro mestiere appunto è foto editor di riviste che scelgono le foto, quindi hanno un'esperienza maggiore del fotografo stesso. E a proposito di riviste contatto, appunto accennavate che ormai siete sulle maggiori testate a livello nazionale. Oggi eravate ancora in diretta, se non sbaglio, in Maletifer, per cui insomma vi avete raggiunto l'apice con Chabalon, siete passati dalla Rai eccetera, a questo Chabalon, punto vi passate anche in finale, penso vogliono chiudere domani. Guarda, ci aspettavano a Parì Photo, ma e questo lo apprezziamo tantissimo al punto Belgica di Belgica prima di tutto. Bravo Marco, prima Picale ufficiale, cioè, domani fai il allora c'è ora, andiamo, scusate. Vabbè, facciamo così, mettiamo un altro brano che Simone ha scelto per te, qui ci inizierà, un saluto anche alle nonne varie, non sarete visto tutti i spot, la nonna di Simone, la nonna, la mia nonna e vi andate music, vi voglio tutto bene. We'll be right back. Shyamalan, fa già caldo, Foyano, sì, fotografia 2017 di edizione. E eravamo arrivati al discorso. Aspetta, perché quando c'è il pipipipi c'è qualcuno che ci scrive e Massimo Acquisti dice: eccomi, e un abbraccio a Valerio. Grande, un bacio, ti aspetta Foyano, zuccone. Ecco, perfetto. E c'è un regalo per te, Quindi se avete anche dei messaggi personali, per esempio, Marco, se c'è da dirti qualcosa possono scrivere. Se avete anche dei regali. Lui lo sa qual è il regalo. Invece, ecco, parlavamo delle letture portfolio, oltre che Valerio ci ha spiegato un po' di che cosa consistono, ma è importante che, diceva Marco, fuori onda per i vincitori. Sì, che c'è un premio, ci sono dei premi, ricordiamo, qualificano anche, perché le letture funzionano sì che tu parli con il fotografo, quindi hai, diciamo, un riscontro come una lezione personale, no? Una lezione personale con una persona di alto livello sulla fotografia, ma in più partecipi a un concorso vero e proprio dove poi alla fine dei due giorni delle letture, che si sono tenute sabato e domenica, tutti i lettori si riuniscono a giuria e premiano. Questa cosa hanno fatto tre premi, nel senso che avevamo due premi, uno sponsorizzato dall'Avis di Foyano per valore 300 euro, è andata a dare a Dabo con il lavoro Marco, un lavoro veramente di estrema sensibilità sul rapporto di corpi fra persone down. No. E il secondo è stato offerto dall'assessorato alla cultura di Foyano, un premio da 500 euro, che è andata a Martina Zanin con un lavoro che si chiama Rinnegato, rapporto fra una figlia e un padre, un rapporto non molto semplice. Il terzo è stato un premio che non sapevamo neanche noi ci dovesse essere, devo dire la verità, perché praticamente prima di creare quella fotografia ci siamo allacciati a un festival Greenbook che si tiene a settembre in Sicilia. È venuta da noi una esposizione che potete vedere in Galleria Furia del Furia di Michele Sibiloni, che si chiama Fuck It, che viene direttamente da quel festival, e noi per riallacciarci di ritorno... Traducilo, Marcello, il titolo, per piacere. Sì, scusa? Fuck it. È un po' casinato. Questa aspettiamo Enzo. Aspettiamo pubblicità. È lo slang che mi un po' mi tradisce. E noi di ritorno, grazie a questo premio che appunto i ragazzi di Gatesbook hanno organizzato, che è andata anche questo a dare a Dabbo, con il titolo Provincia Sospesa, tornerà a Gatesbook a settembre prossimo con la mostra probabilmente prodotta da Festa Siciliana. Quindi io ho avuto occasione anche di visionare i lavori con quello che diceva Valerio, cioè di raccontare per immagini anche delle storie, delle situazioni, non soltanto con un semplice scatto, vengono affrontati anche dei temi importanti che, sì, sociali, che nel quotidiano spesso... La fotografia è raccontare, no? Infatti io sono stato a visitare, fra l'altro una cosa importantissima, con Foyano Fotografia finalmente si è aperto Palazzo Caiani. Si è riaperto, certo. L'abbiamo chiuso noi. Bene, allora diciamo che è stato riaperto finalmente Palazzo Caiani, almeno per 3-4 stanze, che è sicuramente un'area importante da poter sfruttare. 3-4 piani, direi. Sì, tra l'altro c'è stata una diretta che abbiamo fatto noi, lui... Vabbè, ma non lo raccontiamo in meno. No, ma raccontiamo. La mattina abbiamo fatto, diciamo, un sopralluogo, e quindi abbiamo visto che c'erano tre stanze, sì, dove c'erano le mostre, sullo stesso piano. Il pomeriggio facciamo la diretta, io parlo della prima mostra, Marcello parla della seconda mostra, e poi dice: allora andiamo al piano di sopra. Voi che siete anche artisti, vi capita mai di essere proprio incompresi? No? Io stavo cercando di levarmi in altezza, e lui mi tappa dall'altra parte. E allora, a parte duro confronto con la realtà, è tutto lì. Bisogna sempre stare con piedi per terra. I luoghi espositivi sono 4, 5, ce l'hanno andato vicino, e sono per la Bonaria. Furia del Furia, il museo la Santissima e Palazzo Caiano. Sono disposti a cerchio, no, perché diventa tutti in no, allora hanno detto 5 perché il quinto è al piano di sopra il Palazzo Caiano. Vedi che tutto torna, questo quadra è chiaro. E veramente bellissime le mostre, io non dico quale mi è piaciuta di più, anzi lo dico quella sulla Mecca, ma tutte bellissime, forse a me piacciono di più i colori, lì erano più vivi, non lo so, però ecco, parlateci un po', però voi che sapete, no, almeno raccontarci un po' che cosa si può vedere in queste mostre. Ah, quello... sì, non una classifica, di che cosa si parla? Marcello è quello più esperto. No, che c'è da cosa? Uno va a po' su gusti personali. Cioè, ad esempio, a me il lavoro della Mecca è piaciuto tantissimo. Allora, intanto partiamo dal titolo che si chiama, quest'anno il titolo è RAW, che RAW significa sì. Praticamente nel gergo fotografico il file RAW è un file grezzo, fluido. Ah, ok. Quindi da lì è partito, diciamo, chiaro Johnny Terra, che è il nostro direttore. Bravo, ricordiamo, infatti, assolutamente. È partita con questo, diciamo, titolo e ha trovato delle mostre, diciamo, che rappresenta un po' questo ruvido, questo mondo, diciamo, queste situazioni grezze, sì. E niente, le mostre sono Luca Rocatelli, che presenta la Mecca, Palazzo Caiani, che devo dire? Le varie mostre ognuna ha una particolarità, sì, ad esempio questa è stupenda, quella della me. Però a me piace molto anche, forse perché rientra un pochino più nel mio mondo. Certo, immagino. Allora pare quella di Mancini, di Carlo Mancini, che è dietro il coro della chiesa museo. Del lavoro sulla Cambogia, sì, su ancora le mine antiuomo, questa roba. Quello che rientra, mentre le altre, questa è molto bella, quella di Simone Sapienza, che però rientrano meno nel mio modo di vedere. E comunque invece sono tutti nomi importanti e riconosciuti. Sono nomi importanti. Abbiamo Peter Bausa, che tra l'altro è in Carbonaia, che è la mostra più, secondo me, è la più bella. E si è messa anche nella sala più bella. Forse più bella che abbiamo a Foiano. Estiva, che è una sala che ci stanno invidiando tutti. Guarda, noi di Via Salta abbiamo fatto una mostra sperimentale quest'estate, proprio in Peter Bausa stesso ha voluto essere fotografato, perché ha detto che è una cosa incredibile, cioè non ha mai visto uno spazio espositivo in quel modo. E la mostra, vale la pena di venire a Foiano per vedere la mostra, appunto, di Bausa, che si chiama, aiutami, che sembrerebbe il nome di un villaggio turistico, e invece sono dei palazzi dove ci abitano, un quartiere, diciamo, incredibile di Rio de Janeiro. Cioè, da vedere, perché certo, vale la pena. No, appunto, riallacciandomi al tema, sì, di Arro, quello di, appunto, una fotografia cruda, grezza, eccetera, Peter Bausa presenta un lavoro che ha proprio dei contrasti pazzeschi. Questo Copacabana Palace, che era un hotel di lusso, invece lì prende forma con delle case, delle residenze popolari non finite, quindi faccio immaginare quello che è praticamente la qualità della vita. Peggio delle vere di no. Sì. Dove all'interno vivono circa 3.000 persone. E lui per un anno e mezzo ha documentato quella che è la vita all'interno di questo posto, dove ci sono anche delle vere attività commerciali, insomma è un micromondo che esiste a pochi chilometri da tutto il lusso che si è anche creato con le Olimpiadi. Sì, cioè, mondiali. Tra l'altro, scusami se ti interrompo Marco, chi si avvicina un po' a questo mondo si accorge che una mostra fotografica quasi sempre non vuol dire che l'autore va, fa le foto e torna via, ma in realtà è vivere anni. Dipende da quello, il lavoro che devi però molto fare. Spesso sì, si parla di lavori dei grandi fotografi non durano mesi e anni. Cioè, il lavoro di Locatelli è molto particolare, perché un occidentale, da occidentale non musulmano, riesce ad entrare nel tempio, esatto, di un'altra religione con una macchina fotografica in mano. È un lavoro che, se non venite a vedere questo lavoro qui, non riuscite a capire cos'è la Mecca. È un lavoro difficilissimo proprio da affrontare, è stato uno dei pochi italiani, insomma, è stato commissionato, ora non me lo ricordo, ma è stato commissionato, è riuscito a entrare alla Mecca, non so se c'è scritto, ma insomma è... Comunque è aiutato da... perché ci sono le immagini di hotel 5 stelle con la vista sulla Mecca e accanto il fast food con tutta la gente, sì, aggrappata. Insomma, sono cose che mi diverte, mi piace scoprire queste cose, non immaginavo che fosse una realtà così a 360, insomma. Esatto. E quanti minuti sono, Simo? No. 9. 9, allora andiamo con un altro... Aspetta però, con un altro brano, ma non prima di aver letto che Simone Farnetani ci saluta dicendo ciao Shabalon, è uguale, col microfono professional. Grazie Simone. A proposito di Simone, andiamo con un altro brano e poi facciamo una telefonata e poi Fantachiama. Going down a dirty inner city side road, I plotted. Madness passed me by, she smiled high, I nodded. Looked up at the sky, began to cry, she shot it. Met a girl from Dearborn early 6 o'clock this morning, Colfax. Asked about a bag, suburbia's such a drag, won't go back. Cause Papa don't allow no new ideas here. And now he sees the news, but the picture's not too clear. Mama, Papa, stop, treasure what you got. Soon you may be caught without it. The curfew set for rain, will it ever all be straight? I doubt it. Seven jealous fools playing by her rules, can't believe her. He feels so in between, can't break the scene, it would grieve her. And that's the reason why he must cry, he'll never leave her. Crooked children, yellow chalk, riding on a concrete walk, their king died. Drinking from a Judas cup, looking down but seeing up sweet red wine. Cause Papa don't allow no new ideas here. And now you hear the music but the words don't sound too clear. Mama, Papa, stop, treasure what you got. Soon you may be caught without it. The curve you set for rain, will it ever all be straight? I doubt it. Going down the dusty Georgiana side of the road, I wonder. The wind splashing my face, can smell a trace of thunder. Sixto Rodriguez con Inner City Blues. Questo è molto, ha una storia molto particolare, questo autore. Che solo tu conosci. No, nemmeno io, però mi sembra no, di solo tu non conosci. Mi sembra di ricordare che lui in patria non fosse praticamente nessuno. Sudafrica. Un idolo. A scuola. No, no, Sudafrica. Sudafrica, scusami, se vedi. Oh, qualcosa sbaglio anch'io, non è che. Posso fare. Fatto apposta, sei visto. Ho visto per vedere se Marcello, se Simone ci corregge. Sud America, ma non ricordatevi che è importante condividere la pagina di Piazzalta, perché l'amore sarà immenso con voi. Ma ritorniamo un attimo a parlare di Foiano Fotografia. Valerio, tu ci avevi da presentarci qualcosa di particolare? No, Foiano Fotografia, abbiamo detto che è un contenitore di, certo, di non solo di fotografie, ma abbiamo fatto anche altre cose. E abbiamo sempre fatto dei workshop durante dai 4 al 27. Quest'anno avevamo scelto due workshop, uno con Mattia Zoppellaro, che purtroppo non è andato a buon fine per mancanza di iscrizioni, mentre il workshop con Edoardo Agresti abbiamo saputo proprio ieri che è quasi tutto pieno. Ah, okay. Edoardo Agresti, che è già stato a Foiano con altri workshop, niente, Edoardo Agresti... Per gli ignoranti come posso essere io, soprattutto in senso cosmico. Che cos'è un workshop? Workshop in che cosa consiste? C'è un fotografo affermato. Allora, i workshop li fanno in qualunque settore, c'è un workshop, no? Il workshop sulla fotografia significa che c'è un fotografo che ha una determinata esperienza in un settore. Io mi voglio avvicinare a quel settore, quindi partecipo a questo workshop dove lui presenterà i suoi lavori, presenterà il modo di fotografare, come lui fotografa, cioè io mi voglio avvicinare alla sua fotografia. quindi ci sono svariati settori, dallo still life al reportage al fotogiornalismo, ci sono un'infinità di workshop. Tecnica o si parla in tecnica, si presuppone che un fotografo che si avvicina a un workshop di un certo livello la tecnica la conosca, quindi conta molto più. Difatti nel workshop di Edoardo Agresti la macchina fotografica non serve, perché saranno due giorni in full immersion di notizie. Porti la tela ai pennelli. Esatto, sì. È un corso di cucina. Quindi lui fa questo workshop dalla fotografia di matrimonio al reportage di viaggio. Cosa significa? Edoardo Agresti è un grande fotografo, è nato come reportagista. Questa fotografia l'ha riportata sul matrimonio. Quindi ci sarà questi due giorni dove lui parlerà farà una storia della fotografia in generale, in più si arriverà al concreto sul come approcciarsi alla fotografia di reportage sul matrimonio, dal viaggio al matrimonio. Quindi è un workshop molto interessante, soprattutto per i fotografi di matrimonio. È anche dedicato, è molto importante, è molto incisivo, diciamo, sulla fotografia in generale. Stiamo cercando anche un workshop per fotografi di divorzio che sarà l'anno prossimo. Che vanno più, dicevo, molto delicato come argomento. Sì, un mio carissimo maestro diceva che la più alta causa di divorzi è il matrimonio. Quindi voglio dire, è la conseguenza assoluta. Allora, prima ora facciamo un altro brano, ma poi facciamo subito il Fantachiana. E poi c'è da farvi una domanda che ve la faccio, se no me la scordo, però mi rispondete dopo. Qual è la vostra fotografia, il tipo di fotografia che più vi si addice proprio a voi tre? Ma non me lo dite adesso, me lo dite dopo, così intanto mi sono ricordato la domanda. E lascio. Sto pensando anch'io. Che non hai mai fatto una foto. Esatto. A dopo, musica. Siamo di nuovo in onda, E finalmente ci dedichiamo alla prossima rubrica. Ricordiamoci che di qua parlavamo di Fraiano Fotografia. I nostri ospiti sono ancora con noi. Studio. E nell'altro studio, passando per il tecnico, andiamo al bar dello sport e ci trasferiamo al Fantachiana. Sigla. Alza. Tutto molto bello. Bene. Enzo, finalmente siamo qui insieme al presidente della Lega Fantachiana, perché si è conclusa, si chiama Matteo Cassioli, perché si è conclusa il Fantachiana 2 sostanzialmente. Quindi siamo arrivati in fondo, c'è un vincitore di questa tornata, c'è una classifica. Posso dare anche un buonasera. Buonasera, grazie. Buonasera. No, così no, perché è l'ora che è arrivato. Ma ricetta, siamo in un'altra veste. Va bene. Ci fa piacere che lei sia qui. Sì, anche a me fa piacere essere qui. È stato un campionato molto avvincente. Ha vinto una squadra per mezzo punto. Noi siamo tutti veramente curiosi di sapere chi è che ha vinto per mezzo punto questa. No, queste qui sono informazioni riservate. Sì, ho capito che sono vinto, però non dovrebbero essere riservate perché c'è. Lei aveva insistito, sì. Noi ci siamo preparati. Dica. No, ecco, questa qui è data 27:10, l'associazione d'assalto autorizza la Lega Fantachiana di essere l'unico soggetto a poter decidere l'argomento da trattare di ottenere un accesso in trasmissione Chapallon, la tua firma. Ma questa è la mia firma. Ho capito, ma questa mi avete storto questa firma, tra l'altro qui è da nubile. Qui è da nubile, no? Noi abbiamo il fatto, quindi parleremo del che sta per iniziare. Quindi diciamo quella che microfono. Per quella che è stata la tornata finita, cioè il campionato finito, non se ne parla proprio. No, non è stato un campionato avvincente, veramente è stato in vivo fino al momento. Sì. Ha vinto una squadra di mezzo punto su un'altra squadra. Ma so che c'era stata anche una grossa rimonta in atto da parte di una terza squadra. Sì, però noi non se ne possono fare. No, se ne possono fare, la terza se non sbaglio. Se non sbaglio. E vabbè. Noi svegliamo. Diciamo da contratto che andremo a verificare con i nostri notari, il nostro notario. Sì, tieni il microfono davanti alla bocca quando parlo. Andremo a vedere se effettivamente avete tutte le carte in regola per poter gestire i vostri 8 minuti in questo senso. Abbiamo dei messaggi nella chat con Enzo, quindi è tutto. Quindi vogliamo parlare di mercato. Parliamo di mercato. Allora, sta per iniziare la fase del mercato, che poi è la fase che coincide con la scena della offerta alla squadra di cui parlavamo prima. E di cui non sapremo mai il nome. Sì, è uno. È uno degli otto, evidentemente non io. Okay. È rimasto chiaramente soddisfatto. E penso che sì. Lui ha un entourage che non possiamo veramente nominare. Sì, non lo possiamo nominare. Va bene, parliamo del mercato, come si svolge, perché abbiamo il pettinatissimo Matteo Cassioli, scrivono. Chi è questo? Andrea Fei. Certo, vicino a me, anche, insomma, fa sicuramente più figura. No. Ha preso parte alla sessione in questo momento Cocci. È uno sfortunatissimo ragazzo. Ma parliamo di mercato, che il nostro pubblico è curioso, è vero che... Tutti i lunedì il mercato, dicono. Andrea Capannelli. Il venerdì a Castiglioni. Paglio, hai detto che facciamo un bocca al lupo di pronta poi di giugno. Allora, dicevamo, c'è gente che vuole sapere come si stanno muovendo le squadre sul mercato per il prossimo campionato. Allora, diciamo che il nostro è un mercato che ricalca tutto e per tutto il vero mercato. Quindi c'è quindi c'è la possibilità di fare degli scambi tra società, ci sono degli svincolati e a 40 anni è abbastanza preoccupante. Mi sembra racconto, ma svincolato secondo me è un termine che può racchiudere anche l'essenza di molti di voi. Esatto. No, ma siamo poco svincolati, siamo parecchio vincolati a casa. Ma quindi piacevolmente presumo. Si è fatta una trasmissione dedicata in cui un'ora abbiamo parlato per 3 minuti. E c'ho il responsabile di Chapallon in Parmitani, che ci tiene a far capire insomma un po' il gioco. Quindi Bernardino. Quindi ci vorranno sicuramente almeno 20 anni per poterlo. C'è una cosa che è successa ultimamente, Parmitani non ha caricato di dirlo, c'è un del torbido, come sempre, la Pulcinelli, proprietaria della Noello Scivolo, ha dato 75-40 milioni di appelli, proprietario dell'Aquila, per un giocatore rotto. Non è una cosa normale. Non è una cosa, cioè, effettivamente c'è da pensare male, sono d'accordo con te. Siamo più svalvolati che svincolati, Pulcinelli. Chiaramente, Presidente, lei sa benissimo che tutto questo rimane registrato in una... No, io ho solo... io lancio il sasso. No, voglio dire, ci sono dei professionisti che già da queste poche battute possono diagnosticare una patologia. Penso che anche se non sono bravo... Scusa, devo dire una cosa? Sono 4 trasmissioni che non abbiamo mai fatto capire niente, ma io continuerei così. Però aspetta, aspetta. No, sicuramente sei capito che c'è pathos, c'è coinvolgimento. Sì. No, c'è pathos. Se dici che non mi riallaccia al fatto di non capire, salutando Val Gambrini e Gigamondi, che per antonomasia sono i due che non capiscono, cioè niente. Ma perché le regole sono complicate o sono due? Allora Gigamondi è soprannominato Verna, quindi... Verna da? Da Verna, proprio. Come il salto di Verna. E Val D'Ambrini è entrato dicendo io non so Verna, non so Giorgio, mi si sono spiegati tipo... cosa vuoi? Ma... però... ancora siamo ai blocchi di partenza. Siamo a fare quanto. Bene. Qualcuno dice che a te il sasso te l'hanno lanciato nel capo. A me? Sì. A me. E l'hanno anche già fatto. Che mi hanno preso. A questo punto fai un'altra domanda intelligente. Se gli 8 minuti sono passati come da contratto. No, vorrei dire. Fai ancora una domanda. Ecco, allora, vi fermerete per la pausa natalizia? Vorrei parlare del mercato, perché non sono riuscito a dire niente. Allora, il mercato, ora ci sarà la cena del vincitore. Quindi ogni 5 giornate noi paghiamo, chi perde paga una cena al vincitore. Io la mia squadra si chiama Cenorratis, quindi spesso vince. Penso anche in questo campionato partito. Ora come si è classificato? Mi sono classificato e quindi ora la cosa bella è che veramente durante la giornata arrivano dei messaggi sul scambi, prestiti, sul menù e sul menù. Quindi penso che deve essere assunto un po'. So che avete coinvolto anche dei vice allenatori. Sì, è lui. Diciamo. Sì, no, anche loro hanno diritto alla cena gratis. Ma quello è discrezionale, dipende. Te, guarda Marci, sì, ce l'ha tanto vincendo. Quindi fa così, passa bene Enzo. Te sì. Claudio è molto sfortunato, quindi anche lui purtroppo non vincerà. E poi arrangeremo con le cose. Discrezionale. Mi fanno cenno che siamo oltre gli 8 minuti. Spero di aver diciamo. Con parole. Vabbè, così. Sì, non hai bevuto stasera, eh? Io chiedo scusa. Purtroppo. No, ormai il contratto è firmato. Va così, il contratto è firmato. Questa è la firma di Marcello Bernardini, la Nubile. Io andrei con un'altra cosa e poi chiudiamo in bellezza, ma forse anche di più ancora c'è rimasto. Sì, con Fogliano Fotografia torniamo a fare i seri e è tutto un dire. Life is short, even when you're 10 feet tall. Take a moment if you happen to. Thank you. be. Siamo di nuovo in diretta con abbiamo fatto Broly. No, finita la cena. Così. Ciao, siamo in diretta. E noi abbiamo un ospite. Ancora ospiti che entrano. Fotografi sul fotografi. Lui ha contribuito. E anche lui ha contribuito. Mi è venuta una domanda. Ma ecco, le fototessere, no? Quelle documenti. Hanno l'espressività, già, guarda, fare una fototessera non deve essere facile. Ho cambiato il regolamento della patente questa settimana. Perfetto. Allora, io sono sempre sul pezzo. Ce l'avamo lasciati con una mia intelligentissima domanda, poi riparliamo di fotografia. Qual è il vostro stile? Come vi definite come fotografi? Valerio, Marco e Marcello. Passa Valerio. La domanda è cattiva, no? Intelligente, ma d'altronde. Cioè, cosa allora? No, scusa, non volevo mettere. No, è una domanda da mettere in difficoltà. Vabbè, però diciamo, se dovessi definirti te con un aggettivo, due aggettivi te. Allora, a me piace, mi è sempre piaciuta la fotografia di reportage. Quindi, come mi riferivo prima al discorso di Edoardo Agresti, anche facendo matrimoni, cerco di applicare quello stile di fotografia. La fotografia di racconto, a me non piace il posato, non mi è mai piaciuto, quindi anche gli autori che ho letto, che ho vado a visitare, che guardo le mostre, sono tutte foto di street, di reportage, di fotogiornalismo. E piano piano crescendo ti avvicini e ti fai tuo qualcosa di tuo personale che ti piace. Cioè, non è che oggi prendi la macchina fotografica, è un tuo stile, è impossibile, non esiste. Certo. Quindi anche se tutti scattano fotografie, ci vogliono anni per riuscire a trovare una tua strada, un tuo linguaggio. No, scusa, una fotografia, in base a quello che stai dicendo, ci metti qualcosa di tuo o cerchi qualcosa? Quello è chiaro, ma anche nei workshop, perché te vai a ascoltare uno che ti piace come lavora, non è che vai lì per copiarlo. Capisci? Cioè vai per capire certi atteggiamenti che lui ha avuto, come è cresciuto, poi fai qualcosa di tuo e cerchi di applicarlo, ma con il tuo modo di vedere il mondo. Non è che copiare è impossibile, cioè, non avrebbe senso copiare. Marco? Ma niente. Cioè, non tutto il discorso di Valerio. No, cioè, non posso rispondere io come fotografo, però mi viene alla mente, quando hai fatto questa domanda, che una settimana fa c'è stato Maurizio Garofalo che ha fatto un video di 30 minuti di celebrazione su Mario Donder, che è stato un fotografo cardine della storia italiana, che è stato anche qui a fare fotografia più volte, scomparso ormai quasi un anno fa, che diceva una frase che riassume quello che anche io vedo nella fotografia, cioè la fotografia come racconto di una storia, nel senso che lui diceva: io non conosco le persone per fotografarle, penso il contrario, fotografo le persone per poterle conoscere. E poi è la base di tutto, cioè qui ci sono a fare una fotografia 8 lavori con tecniche completamente diverse, ma la base di tutto è raccontare una storia. Quello che interessa a me è la storia, poi come si fa, boh, ci sono mille modi diversi e sono tutti più o meno affascinanti, quello poi è un, diciamo, più sulla sfera personale, però la base di tutto deve essere la storia, quello che c'è tu di personale dentro e la storia che vuoi raccontare. Beh, Marcel. Ma io sono d'accordo con loro, però ecco, una cosa che io, che a me piace molto nella fotografia, a parte il classico, che vengo dalla classicità della fotografia, essendo molto più vecchio, però mi piace molto la ricerca. Quello che è la ricerca in fotografia, che è anche difficile, però ci sono tanti autori tipo Maurizio Galimberti, che forse è il numero uno in Italia sulla ricerca, nel tuo stile di fotografia, che forse non è tipo reportage, ma proprio una ricerca anche mentale, intellettuale. Ok, mi viene, non so perché, ma ascoltandovi mi è venuto in mente anche che abbiamo parlato di, appunto, delle mostre, tra virgolette, ufficiali della, di Foiano Fotografia, ma che poi invece, tra i miei appunti lo trovo, ci sono anche, aspetta che lo trovo da qualche parte, queste qua, bravo, grazie, che sono, come le definiamo queste? Off, no, si chiamano queste off? Off? No, cioè fuori festival. Fuori festival. E sono due mostre. Sono due autori che noi abbiamo scelto, selezionato durante il crowdfunding. Ah, ok, perché durante il crowdfunding però si poteva presentare anche i lavori. Lavori questi due contribuendo, sì, cioè loro contribuendo, logico, però insomma sono stati selezionati. Poi sono arrivati vari lavori e noi di comune accordo abbiamo scelto solo questi due perché pensavamo avessero un valore. Qualcosa da raccontare di interessante, giusto? Sì, no, questa qui è quello che dicevo io, proprio una ricerca qui sulle ombre, sulla cronicità del disastro. A me questo è piaciuto molto, mentre altrettanto mi è piaciuto questo, cioè una cosa nuova che avevo visto poche volte, non avevo mai solo in video, l'avevo visto pure in monitor. E questa, cioè, forse è poco come fotografia, però nel suo insieme a me non mi dispiace. Queste due volte le troviamo in Furia del Fuoco, giusto? In Furia del Fuoco. Dobbiamo aggiungere qualcos'altro? Ma devo leggere una cosa. Assolutamente. Dopo chiudo. Cioè, quest'anno nel pacchetto c'è stata anche una cosa molto importante, cioè essere riusciti a entrare nelle scuole. Ah, ok, certo. Siamo... No. Nel senso, siamo riusciti a entrare nelle scuole... Visto che da piccolo non ci andavo, facciamolo adesso. No, io da piccolo a Scania è stato un mio allievo. È vero, okay, no? Cioè, quest'anno una ragazza che faceva parte del festival di Entourage, Eliana Bambino è andata in una classe terza media di Foiano a spiegare cos'è la fotografia, cioè tutti fanno foto, però insomma realmente perché uno fa una foto. Insomma, è stata una lezione di due ore e mezzo che ho parlato con la professoressa. Di questo ingresso, di questo approccio con le scuole. Molto bello, poi la scuola dovrebbe servire anche a questo, per sapere da dove veniamo in generale, dal punto di vista, diciamo, quello classico, ma anche scoprire nuovi mondi. Tra l'altro volevo sottolineare anche il bellissimo catalogo che illustra e presenta la fotografia, Foiano Fotografia, si vede insomma che c'è gente che sa fare, ecco, diciamoci le cose come stanno. Vorrei farvi ancora una domanda a cui dovete ovviamente rispondere sì. È la mostra più bella del 17, giusto? No, sì, dico nel senso per invogliare a venire la gente, questa è mica lunga proprio. I miei presidenti lo possono confermare. No, vabbè, immagino che saranno state anche altre. Sono tutte belle. Assolutamente. È una bellissima edizione perché l'ho detto, c'è stato più cose. Poi tra l'altro ci raccontavate anche nei giorni scorsi, molta gente, anzi la maggioranza delle persone da fuori e anche da molto lontano. Sì, ora, cioè, questa è una cosa molto importante per noi che organizziamo, cioè convogliare per un weekend, anche più da alcuni dal giovedì alla domenica, un weekend lungo, cioè, nell'indo intendo dormire e mangiare per 4 giorni, perché per 4 giorni dormiamo. E bere tantissimo. Cioè è un indotto per il paese, perché se te pensi che una 50-60 persone hanno dormito per 2-3 notti, certo. Siamo andati in 3-4 ristoranti, siamo venuti qui. Assolutamente. Siamo andati, cioè, sono soldi buoni che girano, ci girano, poi è gente bella. Cioè, esatto. Non è la festa. Cioè, senza togliere nulla da però qui c'è insomma qualcosa di concreto, qualcosa di importante, sì. Qualcosa che volendo, conoscendo noi questi personaggi, se qualcuno di altre associazioni, un po' con noi, fosse stato un pochino sveglio, ma un articolone sul mio prodotto me lo faccio. Cioè, certo, l'importanza di portare certi prodotti. Il messaggio che forse passa poco qua in zona, per cui meno attenti o quindi non addetti, è l'importanza a livello nazionale e internazionale di questa rassegna, che è veramente fra le più quotate nel settore. Vedi, come parli, succede qualcosa. Aspetta, Simone ci dice, aspetta, Salla, io a questo punto prenderei una birra. Ha dato la bevuta e poche. Lui che è passata la bevuta e poche. Appunto, forse anche Valeria dice: Foiano, fotografia è stupenda. Complimenti agli organizzatori. Anche in diretta. Grazie. Finiamo come sempre con una domanda intelligente. No, di infatti, no. Ero partito con una osservazione. Si può dire la stessa frase. Sì, no, infatti, ma non vorrei scivolare il pathos. Mi riallacciavo a quello che diceva Marcello. Alle volte sembra che la fotografia sia una cosa di elite, in realtà per quello che ci ha detto Valerio dovrebbe essere anche una cosa intima, che uno elabora prima di tutto su se stesso e su quello che lo circonda, e come magari riesce a interagire con quello che sta oltre l'obiettivo. Io mi fermerei qui, sono tantissimo. Guarda, non mi metto anch'io allora. No, ma non ha mai finito con una frase così, che speriamo non lo faccia, ma più sarà l'arte che lo sviluppa. Stare insieme a loro, ricordiamo che le cose che non conosco, fino al 27 novembre Foiano Fotografia, per chi vuole venite. Vediamo che le mostre sono aperte però il sabato e la domenica, cioè, gratuite. Anche questo catalogo è gratuito. Anche questo catalogo che io ho a casa già incorniciato. Tu l'hai pagato, mi sei io sì, perché ovviamente, perché giusto è giusto. Grazie a Marcello, grazie a Marco, grazie a Valerio e grazie a tutti voi, una sigla. A tutti voi, grazie a voi che ci ospitate sempre, ma questo è un piacere, mentre lo osservate io faccio la sigla. Avete ascoltato e visto Shabalon, un programma di Piazzalta di e con Enzo e Marcello, alla conduzione tecnica Simone Une. Alle riprese video Matteo. Teo. E allora un saluto a Teo. A venerdì. Ah no, ci siamo scordati una cosa importantissima. Venerdì prossimo siamo in diretta da Roma. Che Dio ce la mandi buona. Da dove siamo, il quartiere? Trastevere. Trastevere, con un attore famoso. Un saluto a Roberto. Ma più attori ci saranno. Sarà una puntata clamorosa in diretta da Trastevere. Ci siamo dimenticati di dirlo durante tutta la trasmissione, ma ve li informeremo poi in settimana. Da un teatro off di Trastevere. A venerdì prossimo. Ciao a tutti. Ossimo.